rappresenta pubblico ufficiale che non sa cos'è la dignità, qual è la verità che si nasconde come quella banconota che ha nelle mutande. È un reato calcolato come disse Kligart, è un governo di ladri che si leccano le dita. La Repubblica delle banane non è mai finita e mai finirà qui. A corruzione l'aria qui. A corruzione l'aria. Vogliono mordere i zombie che camminano lungo la provinciale. Vedo zombie vestiti da sbirri che parlano con zombie ministri che giocano il gioco delle tre carte. Dove il fuoco c'è e lo sanno i drammi, guarda bene le mani, capirai gli inganni di una società che sopravvive senza regole. Zombie del coperto che mangiano la luce del giorno, zombie sacerdoti che mangiano preti che sputano feti per non farsi notare. Loro mangiano in ginocchio ai piedi dell'altare, predicano bene ma razzolano male, sbavano per potersi mangiare un cristiano minorenne, meglio ancora se vergine senza peccati. Sono stato contagiato da uomini sadici, suici politici che mangiano organi, non ricevono ordini, stringono le gole dei più poveri. Sono stato contagiato da uomini sadici, suici politici che mangiano organi, non ricevono ordini e stringono le gole dei più poveri. Figli di puttana, figli di corrotti, figli di schiavi del denaro, ecco cosa siamo. Pensiamo di poter comprare tutto con favori, oggetti, soldi, natura, ma lavoro, fiducia, libertà, rispetto non si comprano. Se non ho dedizione e sacrificio, vedo corrotti ad ogni angolo, sono stati contagiati, ho sempre altre vittime.